Letture di Radio 24. Dopo molti anni, una finale di Champions League rispecchia davvero i valori messi in campo dal calcio europeo. La sfida tra Barcellona e Manchester United, in scena a Londra il prossimo 28 maggio, è l'evento calcistico dell'anno. Succede raramente che una finale di Champions rappresenti esattamente i valori del calcio in Europa. Lo scorso anno, per esempio, rimasero fuori squadre più forti del Bayern Monaco. Quando il Milan vinse ad Atene 4 anni fa, l'avversario era il Liverpool, quarta squadra d'Inghilterra. Stavolta sono tutti d'accordo, c'è il meglio di qualunque categoria del calcio. Tecnica, velocità, gestione degli uomini e della partita. Ferguson e Guardiola sono molto diversi fin dall'età. Ferguson ha 30 anni di più, e anche questo è raro. Il suo Manchester tende a tenere il pallone per poi verticalizzare improvvisamente. Il Barcellona sfinisce gli avversari a forza di passaggi brevi, spesso va direttamente in porta con il pallone. Ferguson ha visto e giocato tutto il calcio. È uno straordinario costruttore di squadre. In 25 anni di panchina a Manchester ha cambiato circa 200 giocatori e almeno una decina di schemi, mantenendo sempre risultati simili. Guardiola è più fine tatticamente. Ha cercato nel calcio qualcosa di diverso e l'ha trovato. Molti dicono che la sua vera diversità sia Messi, e questo è senz'altro vero, ma non c'è dubbio che il modulo di Guardiola, per chiarezza e insistenza, sia unico. Dov'è la differenza? Il Barcellona è una squadra quasi soltanto veloce, ha resistenza, non grande forza. Solo 3 giocatori superano il 1,80 m. Il primo segreto è dare il pallone sempre a un compagno in movimento. Il secondo è continuare a correre anche quando si è fatto il passaggio. Questo porta a cambiare sempre partita. Il terzo segreto, il più interessante e originale, è l'assenza di un centravanti di ruolo. Messi e Villa partono dai lati, anche Pedro. Si svuotano così un centinaio di metri quadrati dentro cui si infilano a turno Iniesta, Xavi, Keita e qualunque altro oltre gli stessi attaccanti. Ferguson è più classico. Ha inventato le prime vere squadre internazionali, mescolanze di latini, britannici, europei e africani. Raramente, anche 20 anni fa, lo United giocava all'inglese, solo correndo e picchiando. Non so chi vincerà. Io amo più Ferguson. Guardiola è un predestinato, quasi un mistico ossessionato da se stesso e dal risultato. C'è nei suoi occhi a volte un po' della fissità di Sacchi. Ferguson è il compagno di strada più anziano. Un consiglio, una birra e un'idea. Chiunque vinca sarà però una grande partita. Il vero calcio moderno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il meglio dell'Europa di Mario Sconcerti da 7 di giovedì 19 maggio. Letture di Radio 24. Il viceammiraglio William McRaven è l'artefice del piano che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden, capo di Al-Qaeda e uomo più ricercato del mondo dopo l'11 settembre. Lo stesso piano elaborato dal militare faceva parte delle 612 pagine della tesi che lo stesso McRaven discusse nel 1993. Storia di un'ossessione. 3 mesi prima della morte di Osama Bin Laden, il direttore della CIA, Leon Panetta, invita alla sede di Langley, in Virginia, il viceammiraglio William McRaven, capo del Comando Unificato per le Operazioni Speciali, e gli chiede un piano per arrivare al superterrorista con un'irruzione da terra delle forze speciali. Alla Casa Bianca il piano è conosciuto come Opzione McRaven e deve competere con l'altra opzione possibile, un violentissimo bombardamento dal cielo. Piano, questo, che garantisce un finale più certo, cioè la villa fortificata di Abbottabad, rasa al suolo, ma ha alcune controindicazioni. Per esempio, niente corpi da identificare con certezza, né computer pieni di dati preziosi di cui impadronirsi. McRaven non pensa che al grande momento dal 2004, ovvero da quando il presidente George W. Bush gli ha assegnato il compito semi-impossibile di catturare o uccidere Bin Laden. Quando si presenta alla Casa Bianca, il viceammiraglio ha già la dottrina per l'azione pronta in tasca, perché l'ha scritta lui. È già in uso in Afghanistan, dove i suoi soldati speciali stanno trasformando in un'arte i raid chirurgici per catturare o eliminare i capi nemici. L'opzione vincente è davvero un'ossessione nata nella testa di McRaven addirittura 18 anni fa, quando è soltanto un ufficiale delle forze speciali con una laurea in giornalismo presa tempo prima in Texas. È allora che decide di tornare al College della Marina, a Monterey, in California, per un master in affari di sicurezza nazionale. La tesi che consegna ai relatori ha un tema anomalo: come si fanno le operazioni speciali. Ma è così buona che oggi è una lettura obbligatoria per tutti gli ufficiali delle forze d'élite americane. La missione per catturare Bin Laden è già in quelle 612 pagine battute a macchina sotto il titolo The Theory of Special Operation, la teoria delle operazioni speciali. Dei 10 capitoli della tesi, 8 sono dedicati ad altrettanti colpi di mano e di genio militare della storia moderna. In tutti gli 8 capi, pochi uomini super addestrati e con un piano elaborato con cura maniacale sono riusciti a sconfessare l'assunto del più grande stratega moderno, Karl von Clausewitz, che metteva in guardia: forze numericamente inferiori lanciate contro una postazione fortificata non avranno mai speranza di riuscita. Non è così. Nella sua tesi, McRaven descrive come invece si può riuscire. Basta seguire un piano semplice, non perdere di vista la sicurezza, ripetere l'azione fino alla nausea negli addestramenti, cogliere di sorpresa il nemico, essere veloci e risoluti. Il concetto essenziale si chiama superiorità relativa. È quello stato di grazia temporaneo che hanno gli incursori nella primissima fase del loro attacco, quando grazie alla velocità e all'effetto sorpresa sono in condizione di vantaggio su un nemico più numeroso e meglio posizionato. Queste regole sono state tutte diligentemente applicate nell'operazione di Abbottabad in Pakistan. Per provare l'azione contro Osama Bin Laden, i Navy SEALs si sono allenati in 2 copie dell'edificio a grandezza naturale e le fasi del raid sono state semplificate in una sequenza studiata al secondo, da come reagire davanti alle guardie del corpo di Osama a come e in quale ordine raccogliere il materiale trovato. Tutto in meno di 40 minuti, prima che l'esercito pakistano arrivasse sul posto e potesse trasformare il trionfo di Barack Obama in un disastro diplomatico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Nella tesi di laurea dell'uomo che ha ucciso Bin Laden c'era già scritto tutto» di Daniele Raineri, da Panorama di mercoledì 18 maggio. Troppi studenti restano indietro, già dalle scuole medie, che si rivelano un vero e proprio flop di insegnamento. È quanto emerge dall'ultimo studio della Fondazione Agnelli, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia di Torino. Bocciata la scuola media. La Fondazione Agnelli, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia di Torino, ha condotto uno studio interamente dedicato alla scuola secondaria di primo grado. I risultati, è scritto, mettono in dubbio la capacità della scuola secondaria inferiore di garantire pari opportunità di apprendimento a tutti e di adempiere quindi a una delle missioni istituzionali che le sono state attribuite. Il fallimento, prosegue il rapporto messo a punto da Gianfranco De Simone, ricercatore della Fondazione, investe direttamente l'organizzazione e le pratiche didattiche messi in atto in questo particolare segmento del processo educativo. Un giudizio duro, insomma, riferito soprattutto agli studenti stranieri, spiega Andrea Gavosto, direttore della Fondazione. Il sistema italiano prevede che i ragazzi vengano inseriti immediatamente nelle scuole. A volte non parlano nemmeno l'italiano, vengono catapultati a scuola senza ammortizzatori di alcun tipo. È alle medie che si scontrano con la possibilità di una bocciatura e il rischio di non farcela può essere fino a 19 volte più elevato di quanto non avvenga ad uno studente italiano. Altri fattori a rischio nei ritardi sono quelli relativi alla salute. Chi consuma alcol, almeno una volta al mese, ha il 50% di probabilità in più di essere in ritardo negli studi. Chi fuma più o meno regolarmente ha una probabilità di 4 volte superiore. A rischio sono soprattutto i maschi, che in prima media hanno una probabilità del 30% superiore rispetto alle femmine di trovarsi in ritardo. Un valore che in terza media arriva al 50%. Le soluzioni? Un supporto differenziato ma garantito a tutti nelle ore pomeridiane e sostegno agli studenti stranieri arrivati in Italia in età scolare con classi di benvenuto e specifici supporti pomeridiani. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Il flop delle medie, troppi restano indietro» di Flavia Amabile dalla Stampa di venerdì 20 maggio.